Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Per cominciare quella che è la settimana numero 34 della stagione numero 12 in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM. Questa è eclettica, sì, un po' variata nel formato nel corso degli anni, però con il suo consueto contenuto di musica, ma non solo, anche di cinema e di libri, come per esempio vi accorgerete fra pochissimo. Giulio è radiorockfm.com, è il modo che avete per mantenere il contatto con me e soprattutto per iscrivervi alla lista nera di Eclettica, lista che vi permetterà di ricevere nella vostra casella di posta la playlist, cioè l'elenco completo dei brani, dei film e dei libri che caratterizzano Eclettica settimana per settimana. Nelle prime ore di quella che a Miami Beach prometteva di essere una sera estiva di caldo opprimente, Simon Winter, un uomo anziano che aveva passato la vita a occuparsi di morte, decise che era giunto il momento di uccidersi. Rammaricandosi per un istante dello spiacevole compito che avrebbe scaricato su qualche sconosciuto, raggiunse a passi lenti l'armadio della camera da letto ed estrasse una consunta 3-tonto special a canna corta dalla sua fondina di pelle scolorita e chiazzata di sudore. Fece scattare il tamburo, ne tolse 5 delle 6 pallottole e se la fece scivolare in tasca. In tal modo, pensò, avrebbe fugato ogni dubbio sulle sue intenzioni. Stringendo in mano la pistola, Winter si mise alla ricerca di un foglio di carta e di una penna con cui scrivere un messaggio di addio. Ci vollero diversi irritanti minuti. Questo era l'incipit del Carnefice di John Katzenbach. and kids and how I would live, how I would die. It's out of fright, it's self-absorption. I wanna learn from my mistakes before they can scare me away from the drugs. For himself and spends all his time on his waistline. I picture a man who lives in the past. He keeps a book of photographs of his younger self, clever and sound. Questo brano sta crescendo di ascolto in ascolto, un'esperienza del tutto personale, quella che vi sto descrivendo. Mi piacerebbe sapere, come spesso vi chiedo, di sapere anche quello che ne pensate voi, se Final Fantasy con Many Lives 49 Ampi è uno di quei brani che ha bisogno di tempo per poter crescere. In precedenza invece ci eravamo ascoltati Gel in apertura di Eclettica, di questa prima parte di Eclettica di questa settimana, ed ora ci stiamo per trasferire in Italia, nel nord-est, il nord-est della Riot Maker, da cui provenivano band come quella degli Amari o quella degli Scuola Furano, e da cui provengono i Carnival Trio, che sono usciti con questo loro nuovo Moda Mare. La Riot Maker si autodefinisce l'etichetta della musica per fighetti, a voi condividere o meno questo giudizio. met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up, because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Taste in Music, è arrivato quindi con questo brano il nuovo album Pat Grief da parte dei Radio Department, è arrivato a noi grazie alla Labrador ed è passato all'interno di Eclettica, la prima parte di Eclettica di questa settimana, che vi ricordo non è disponibile solo negli orari canonici, quelli da palinsesto, ma in qualunque momento, nel caso voi vogliate avvalervi del podcasting, potete scaricarvi le trasmissioni, le relative pillole e ascoltarle quando e come preferite, in alta qualità audio a differenza dello streaming, dove l'audio invece è un pochettino penalizzato. Vediamo di proseguire con la musica, musica che proviene in questo caso non dalla Scandinavia ma dall'Inghilterra, un disco pubblicato il 13 di marzo, un artista che proviene da Sheffield per la precisione, che di nome fa Jolly Wild Goose, un debutto nel 2004 dal titolo Lovely White Teeth, e questo invece è il secondo album, Afterlife, il titolo dell'album, e invece il brano che noi ci ascoltiamo ha per titolo Pop Music. Down on this cold cello strings. Thank you. eclettica ha un nome impegnativo come trasmissione, deve mantenere nei suoi suoni l'impegno di eclettismo che si è presa con il nome scelto, e quindi saltiamo veramente di qua e di là, allarghiamo il più possibile i confini della musica che viene trasmessa da Rock FM, compreso il New York and Soul che ci siamo appena ascoltati, da un disco che esce a nome Luisito Quintero, un disco guidato dalle percussioni, un disco con un percussionista solista. Questo disco l'ha voluto Louis Vega, della cui Element of Life Orchestra Luisito Quintero fa parte. Proviene dal Venezuela, ma ormai fa di base come Louis Vega a New York City, e noi ce lo siamo ascoltati quasi in chiusura di Eclettica, perché Eclettica in questa parte lo chiudono i Black Eyed Susan. Eclettica. Fine della prima parte.